Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo del disegno di legge fiscale e quindi per quello che riguarda anche le novità introdotte sull'IMU, ma non solo, oggi è il giorno in cui in Veneto nasce purtroppo, o meglio un'iniziativa lodevole, ma purtroppo nasce l'associazione dei familiari degli imprenditori che si sono suicidati per la crisi, e torneremo su questo tema perché mi sembra che la politica, ma anche forse la politica intesa come governo nazionale, i partiti nazionali, ma anche gli enti locali, chi dovrebbe stare vicino, chi ha le risorse, chi gestisce le ASL, quindi gli psicologi, insomma tutti sono molto silenziosi su quella che a nostro avviso invece è una guerra in corso. Una guerra mai dichiarata, ma una guerra che sta mietendo le prime vittime. Ho visto con piacere, lo dico in maniera assolutamente modesta, che la nostra piccola proposta che i partiti rinunciassero alla loro quota dei 170 milioni che devono arrivare da qua a luglio come con finanziamento ai partiti, beh, è stata accolta dalla Lega venerdì e oggi dall'Italia dei Valori. Speriamo che gli altri tre partiti, quelli che riceveranno le quote maggiori, e mi riferisco a PDL, PD e UDC, seguano quanto fatto dalla Lega e quanto fatto anche dall'Italia dei Valori. Noi il nostro appello continueremo a farlo. E ancora, per quello che riguarda invece il mercato, la situazione è più calma oggi, leggermente positiva Piazza Affari, più 0,33%, Parigi più 0,70% come Francoforte, Londra più 0,60%, l'America più 0,5%. Tra l'altro sono usciti anche alcuni dati trimestrali oggi. Citigroup ha archiviato il primo trimestre con un calo di a 2,93 miliardi di dollari dell'utile, che è sceso quindi del 2,3%. Tra l'altro nello stesso periodo dell'anno scorso l'utile di Citigroup era di 3 miliardi. E parleremo anche di una buona notizia, nel senso che nonostante la frenata della produzione industriale, il dato che è arrivato oggi sulle esportazioni italiane nel mese di febbraio è un dato non bello rispetto a gennaio, perché è fermo l'export, però è bello ed è buono rispetto a febbraio del 2011, che comunque già aveva visto un buon andamento dell'export, a significare che comunque quel poco di ripresa o comunque di tenuta dell'economia che abbiamo continua a essere una tenuta che deriva da una matrice estera, più 7,3% l'export italiano a febbraio 2012 rispetto a febbraio 2011, mentre le importazioni sono rimaste ferme, praticamente più 0,8% rispetto all'anno prima. E tra l'altro esportiamo bene in Germania, anche in Francia, in Gran Bretagna, in America, non bene in Cina, il dato anno su anno, e molto bene in Giappone. 349-238-6666 per i vostri sms, questi temi, rapidamente le altre notizie in breve. Riprendiamo dalla borsa, perché se abbiamo un Banco Popolare che perde il 5,17%, di Assorin il 5%, A2A il 4,30%, Monte dei Paschi il 4%, Enel Green Power il 2,80% come la Popolare di Milano, e Mediaset perde il 2,5%, Finmeccanica il 2,2% come Mediolanum, abbiamo invece il netto rialzo Buzzi Unicem più 5,20%, Pirelli più 3,20%, Fiat Industrial più 2,70%, Tods più 2,60%, Telecom Italia più 2,5%, Prismian più 2,3, Saipem più 2,1, Eni più 1,60, Luxottica 1,5% di rialzo, Parmalat 1,3, Fiat l'1,1% di rialzo come Snam ed Exor. Euro a quota 1,3070, lo spread italiano non va bene. Ha toccato di nuovo, è andato vicinissimo, quindi la differenza tra quanto costa a noi trovare finanziatori per il debito rispetto a quanto non costi la Germania è tornata quasi a 400 punti base, 396, vuol dire 4% di rendimento di differenza rispetto a quanto deve offrire la Germania. È poi sceso a 379, comunque siamo su livelli relativamente alti, sicuramente rispetto a due settimane fa, quando eravamo scesi a 290, 270. Ancora sull'oro invece, materie prime in calo a 1672 dollari l'oncia, il petrolio è a 102,97 dollari, leggermente in rialzo. E dicevamo però degli spread, se quelli italiani hanno fatto 396 poi sono scesi a 379, sono molto alti quelli spagnoli e si sono ulteriormente distanziati da quelli italiani. A 444 punti è lo spread spagnolo. E il rendimento dei bonus dei titoli di Stato spagnoli ormai è al 6,15%, un livello molto molto alto e molto pericoloso. Tra l'altro i CDS, i credit default swaps, ossia i premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi contro il rischio paese, sono saliti in Spagna a un nuovo record storico, cioè più alto di quanto non fu quello di novembre / dicembre, 521 punti. Anche all'Italia, anche in Italia sono cresciuti non a record storico ma ai massimi da tre mesi, 443 punti. La riforma fiscale ne parleremo perché è arrivata al Consiglio dei Ministri il fondo, l'ipotesi del fondo in cui confluiranno le maggiori entrate della lotta all'evasione da utilizzare per diminuire la pressione fiscale. C'è novità sulla casa, riforma del catasto e tassazione d'impresa. Allora, c'è il fondo, dicevo, per gli sgravi fiscali, arriva la riforma del catasto con sostanzialmente l'utilizzo del metro quadro come unità di consistenza, non più i vani. E tra l'altro lo prevede l'articolo 2 della bozza e sono previste procedure di collaborazione con i comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili. Saranno anche utilizzate funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale, per ciascun ambito territoriale. E poi vi sarà anche una revisione periodica sulle rendite della casa, cioè un meccanismo di adeguamento periodico dei valori del catasto. E ancora tre rate per la prima casa, 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre. Agevolazioni IMU sulla prima casa si applicheranno solo sull'abitazione dove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si applicano per un solo immobile. Se i coniugi sono separati, paga l'IMU chi abita la casa. Buone notizie sul debito italiano, il dato della Banca d'Italia scala di 7 miliardi a febbraio, a 1928 miliardi per la precisione, però il debito dei comuni italiani preso tutto assieme ha superato la soglia dei 50 miliardi, 50,222 miliardi, un incremento di quasi un miliardo dall'inizio dell'anno, 818 milioni. Praticamente nel passato solo una volta, lo scorso maggio, il debito dei comuni italiani era risultato superiore complessivamente a 50 miliardi di euro. Italia sì, Italia no. Allora, nell'incontro tra l'emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani e il premier Mario Monti, il Fondo Sovrano del Qatar ha detto che sta cercando modi e forme per investire in Italia. Il Fondo del Qatar è uno dei più grandi al mondo come potenziale di investimento, il Fondo Sovrano, come si chiamano i fondi, diciamo, di matrice nazionale. E però il premier Mario Monti ha detto che il motivo vero che ha scoraggiato in passato gli investimenti in Italia è la corruzione. Noi ci permettiamo di aggiungere anche la burocrazia e l'incertezza sui tempi della giustizia civile. Una buona notizia arriva però anche dall'accordo firmato per il rilancio del polo di Marghera, un centinaio di aziende pronte a sbarcare nel veneziano, oltre 2 miliardi di euro di investimenti in 4 mesi. È una delle zone più inquinate d'Italia, tutta da bonificare, è il frutto di un accordo pilota lanciato dalla Regione Veneto e accolto dal Ministero dell'Ambiente e siglato oggi a Venezia. Investimenti complessivi per 5 miliardi di euro, di cui 3 da fonte pubblica e 2 miliardi dai privati. E poi il ministro Barca, ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, all'Aquila, in un incontro con gli studenti, ha detto: io ho 3 figli e 2 se ne sono andati dall'Italia. Non è che ne sia felicissimo, ma finché non costruiamo un'Italia migliore in cui non serve l'aiuto del padre per trovare un posto, anche perché non gliene do, fino ad allora stanno bene lì. È una frase che scatenerà polemiche, perché insomma il ministro che dice fuga dei cervelli, se l'Italia non migliora è giusto. Allora, andare all'estero fa sempre bene, non è una fuga, può essere una formazione. Altra cosa se all'estero ci resti e non torni più. A mio avviso rischi di essere una di quelle frasi un po' boomerang, cioè vere ma sbagliato chi la pronuncia. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe dire no, non si fugge da questo paese, si resta qua. Se resta qua a combattere. E a questo proposito io devo segnalare un nuovo caso di un imprenditore che si è ucciso. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Tutte le sere sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Si chiamava Roberto Piccinetti, 62 anni, si è tolto la vita questa mattina a Fano impiccandosi in un capannone della sua azienda agricola. Allora, su questo voglio essere molto chiaro, Radio 24 non ha più nessuna intenzione di assistere, la radio nel suo complesso e i conduttori e nel loro specifico, a questo stilicidio, questa guerra non dichiarata di cui tutti, scusatemi se uso un termine poco francese, sembrano in questo momento fottersene. Oscar Giannino è qui accanto a me, ha fatto ancora più di Focus Economia una battaglia una battaglia vana, per ora persa, per denunciare, perlomeno sensibilizzare, non l'opinione pubblica, le istituzioni. Su questo, Oscar, abbiamo deciso che ci siamo rotti le palle. Sebastiano ha perfettamente ragione, non posso che sposare il tono duro e contemporaneamente profondo che noi utilizziamo ogni giorno nella tua trasmissione, tu nella mia, io, per denunciare questo stilicidio terribile che da mesi è diventato la scansione quotidiana di un paese che nella sua piccola impresa, negli artigiani, nei commercianti, nei lavoratori dipendenti, hanno varcato la soglia psicologica che era molto importante per la cui tenuta tanto si era fatto, e varcata quella soglia la gente inizia a uccidersi. Di fronte a questo, noi per il mestiere che facciamo e per il cuore che abbiamo, ma le istituzioni, le associazioni di impresa, tutti coloro che sono presenti sul territorio devono sentire questo elementare dovere che avvertiamo noi come uno schiaffo al nostro cuore, al nostro mestiere. Non ci sentiremmo di fare il nostro mestiere ignorando, come troppi continuano a fare, questa catena che si è messa in moto bisogna interrompere, per metterla in condizione di interrompersi bisogna dire alla gente siamo qua pronti ad ascoltarvi. Questa è la grande forza di un paese che se dimentica la solidarietà verso chi ha costruito impresa, lavoro, in questo identifica il suo onore, è la parte migliore della storia di questo paese. Io penso che non possiamo più guardarci in faccia, e troppi purtroppo secondo me, anche la rappresentanza dell'impresa non l'hanno ancora capito, tanti sì, cominciano a capirlo, quindi gente come Sebastiano, io mi metto per ultimo, hanno il dovere di continuare. Sì, poi adesso non voglio polemizzare perché la puntata oggi è lunga, ma insomma quando vedo che il PD, ma anche il PDL, ma insomma il PD si preoccupa più del paragone tra Minetti o Nilde Iotti, con massimo rispetto, ma chi se ne frega di quello che ha detto la Santanchè, era giusto che la Zanzara pubblicasse, e non c'è una parola che arriva su questa guerra strisciante, silenziosa, l'abbiamo detto già venerdì, oggi si è creata nel Padovano l'associazione familiari vittime degli imprenditori suicidi. Quando nascono le associazioni dei familiari come Piazza Fontana, come la strage di Bologna, come il terrorismo, vuol dire che si è di fronte a una guerra, e questo deve essere chiaro a tutti. Non so prima o poi quando ci ascolteranno. Quello che voglio dire concretamente è che tutta la D24, a partire da Oscar Giannini e dal sottoscritto, lancia in questo momento un'iniziativa che domani partirà anche ufficialmente, si chiama Disperati Mai, Disperati Mai, incazzati sempre. Però il titolo è Disperati Mai, l'indirizzo mail è disperatimai@radio24.it. voi iniziate a scrivere le vostre situazioni, noi cercheremo il più possibile di raccontarle, io, Oscar Giannino, ma non solo, tutta la radio, e poi di dare anche una forma ancora più potente, più forte, insomma quello che riusciamo a fare. Non possiamo metterci a fare le barricate, ma iniziate a scrivere, perché soli, per quello che ci riguarda, non siete. Disperati Mai, @radio24.it. Ha ragione Sebastiano, io accolgo il suo appello di fare di questa radio, io sono contro l'esterno, lo sapete, ma un contenitore a vostra disposizione. Se ci scrivete le vostre storie, noi abbiamo l'impegno d'onore di portarle nelle nostre trasmissioni, di rompere le scatole, di far sentire la voce a chi ancora troppo è in silenzio. Io devo dirvi la verità. Fin dal primo giorno ho detto, qui non è questione di soldi di Stato, innanzitutto l'associazione di imprese, innanzitutto il sistema bancario, il sistema assicurativo, che lo sappiamo, stanno piegati sotto la crisi, ma la disponibilità di qualche cosa per mettere in piedi centri di ascolto territoriali ce l'hanno. Chi fa per primo questo adempie alla propria missione di uomo e poi di imprenditore. Questo è l'appello di Sebastiano di Radio 24, per ultimo mio, e noi continuiamo a farlo. Voi scriveteci l'indirizzo, ripetilo Sebastiano. L'indirizzo è l'indirizzo mail è disperatimai@radio24.it. Disperati mai, tutta una parola, disperatimai@radio24.it. Ha ragione Oscar, le associazioni di categoria, qualcuna si è mossa, ma ancora poche, troppo poche. E poi io batto sulle regioni. Quando abbiamo chiesto al governatore Zaia un mese fa, perché il Veneto è una delle terre più colpite, ma vale per Cotta, vale per Formigoni, vale per l'Emilia Romagna, non riuscite a fare un numero verde? Sì, ci stiamo pensando, ma le ASL, un numero verde serve, perché lo psicologo non possiamo mettervelo noi. Obiettivamente noi ascoltiamo le vostre storie, scriveteci gli sfoghi, le difficoltà, le raggrupperemo il più possibile, ma scrivere, resistere, disperati mai, piuttosto, come ha detto quel mitico imprenditore che vi faccio ascoltare anche dopo, me la vengono a chiudere l'azienda, voglio le banche qui, voglio lo Stato qui, ma uno non può mettere in repentaglio la propria vita. Grazie Sebastiano, un saluto a chi ci ascolta. Grazie a Oscar Giannino. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Vabbè, certo, lo dico col massimo rispetto di tutto, avrei immaginato di occuparmi in questi anni che dover fare anche, diciamo, l'aiuto, speriamo almeno morale e psicologico, per l'assenza totale di chi si occupa di temi molto più alti, molto più importanti. Oggi si chiede perché c'è disaffezione per la politica. Disaffezione per la politica. Oh, andiamo avanti. Con Confindustria, Camera di Commercio di Milano, Confcommercio, Solombarda e Unione del Commercio di Milano hanno firmato oggi con Expo 2015 una convenzione per un piano strategico. In sostanza le imprese si scambiano informazioni per fornire servizi migliori in vista dell'Expo. Accordo molto importante, vi faccio un esempio: se un cliente arriverà, un visitatore arriverà in un albergo, è lo stesso albergo, in occasione dell'Expo, che si premurrà di trovare un'altra sistemazione di pari livello. Sentiamo Diana Bracco, presidente del progetto speciale ed Expo 2015 di Confindustria, al microfono della nostra Alessandra Tedesco. Tutti insieme per costruire, con l'aiuto evidentemente di tecnici, per costruire un ecosistema, cioè una piattaforma virtuale interoperabile cui possono accedere tutti gli operatori che con un minimo di investimento ICT si renderanno congruenti, diciamo, si renderanno adatti a partecipare. Questo cosa porta? Porta intanto al sistema delle imprese un grande aiuto e un grande anche impulso, perché partecipano tutti di tutte le dimensioni, per categorie merceologiche, a questo grande ecosistema. E poi danno, secondo me, ai cittadini un enorme vantaggio, perché li rendono partecipi di tutto questo scambio dati e lasciano quello che è il primo lascito immateriale che io vedo del dopo Expo al territorio. Dunque, c'è chi dice: ma insomma, però delle morti bianche non parlate mai. No, guardi, ne parliamo tantissimo, e poi apre le inchieste alla magistratura. Non contrapponiamo in una finta lotta di classe, quando, diciamo, questo liquido marrone che non è cioccolata sta arrivando a un livello sempre più alto. Non contrapponiamo la morte bianca con il suicidio dell'imprenditore. Attenti a cortocircuiti, non è quello il problema è inchiodare le associazioni di categoria, anche Confindustria, e i partiti alle loro responsabilità, non a dialogare di quello che a loro più interessa. Professor Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al MIP Politecnico di Milano, buonasera. Buonasera. Adesso arriviamo anche al dato su cui vorrei suo commento, cioè questo buon dato sull'export. Condividere la nostra iniziativa, difficile dire di no, ma non è una domanda retorica. Ci stiamo muovendo noi, non so se hai sentito quella parte con Oscar Giannino. Ho sentito quella parte, e quella parte mi è piaciuta moltissimo. Io voglio dire che noi come Politecnico stiamo lavorando in questa direzione, sono veramente molto contento di dirlo. Proprio in questi giorni, in un corso per imprenditori che abbiamo organizzato in provincia di Como, uno dei ragazzi, un giovane imprenditore, ha detto: basta, io ero demoralizzato, ero depresso, grazie a questo corso e alle amicizie che sono nate, riparto, faccio un'impresa ICT Cloud, il 25 maggio facciamo una festa. Quindi ottima iniziativa, ottima. Ecco, gli ridico anche l'indirizzo: disperati mai, @radio24.it, iniziate a scrivere. Ripeto, convoglieremo tutte le vostre testimonianze, io, Oscar Giannino, altri programmi della radio, e poi cercheremo di fare anche un'iniziativa. Non vogliamo diventare un partito, lo dico a chi scrive, sto benissimo qua, però il voto è pneumatico. Professor Sdogati, una buona notizia è questo dato sull'export. A febbraio, nonostante la produzione industriale italiana si sia fermata, l'export rispetto a febbraio 2011 va bene, più 7,3%, Germania più 7, Francia più 5, Gran Bretagna più 10, America più 21, Giappone più 22, frena la Spagna, ma lì non c'è una lira, meno 7,5%, frena anche, devo dire, la Cina, meno 4,8%. È una coda, oppure c'è una parte di questa stagnazione economica che noi non vediamo? Vuol dire che è una forte recessione come domanda interna, ma fuori continuiamo a tirare. Allora, la situazione sta cambiando in maniera importante. Noi abbiamo già cominciato stamattina a lavorare su questi dati, usando i dati del commercio estero per cercare di capire le trasformazioni nella specializzazione produttiva.

la dolce vita, no? Che sono cose assolutamente fuori da ogni ragionevolezza. Sono i beni strumentali, sono le macchine utensili. Io continuo a vedere nei dati del commercio estero che là fuori c'è un mondo che domanda queste nostre macchine, macchinari, macchinari italiani. No, voglio dire, italiani. Non c'è contrapposizione tra l'esportare il lusso, lo stile di vita italiano e quant'altro. Basta non immaginare che questo paese possa mantenere la sua classe produttiva esportando solo vino, agroalimentare, cinture, scarpe, abbigliamento, perché se no non ci capiamo. No, va benissimo perché l'export del vino ha fatto 4 miliardi e mezzo di saldo nella bilancia commerciale. Va bene anche la moda, sarebbe bello anche che i marchi restassero italiani e non fossero, diciamo, preda delle conquiste francesi. Però attenzione che poi il grosso del lavoratore non lo fa, diciamo, l'alta moda, col massimo rispetto, Sempre col massimo rispetto. Immagini lei, se non sono contento di vedere che facciamo delle buone esportazioni, dei buoni prodotti, eccetera. Il problema essenziale è che questi sono settori, quelli che lei ha menzionato, in cui noi non potremo occupare i nostri giovani, i giovani laureati, i giovani ingegneri, i giovani qualunque tipo di giovane, perché non sono settori che domandano forza lavoro qualificata o altamente qualificata. Quindi questo è il mio problema fondamentale quando si parla di specializzazione produttiva. Voglio dire, noi abbiamo di fronte a noi, guardi, io ero il 23 marzo a Londra a incontrare i nostri alunni, è stata una sensazione stupenda, da questo paese che anch'io spesso definisco in grande difficoltà e disastrato, sono andati a lavorare in Inghilterra e hanno un successo enorme. Decine e centinaia di nostri ragazzi che guadagnano salari veri, che fanno carriere vere e sono nei settori ad alto valore aggiunto, quindi ricerca, quindi ICT, ovviamente industria della finanza, eccetera. Quindi cerchiamo di mantenere un balance, un equilibrio, evitare i trionfalismi, esportare la dolce vita, poi si scade un pochino, insomma. No, sono d'accordo, anche perché poi la retorica in queste cose è sempre dietro l'angolo, e poi non capisco perché un paese debba giustamente, lo dico tre volte, giustamente esaltare i suoi stilisti, i suoi designer, i suoi architetti, tutta questa cosa molto importante, apre domani il Salone del Mobile a Milano, quella è una voce fondamentale del 4A del nostro export, però nessuno si ricorda mai che noi siamo, dopo la Germania, leader in Europa nella meccanica industriale. Ho capito che la fabbrica che produce meccanica è meno sexy della sfilata di moda, no? O anche, diciamo, dell'artista che fa vino o del designer che disegna il mobile. Però quella è l'Italia che, anche quella è l'Italia che esporta, e grazie a quella che poi c'è anche il resto. Attenzione a innamorarsi dei modelli o delle modelle. Grazie, professor Sdogati, buona serata. A lei buonasera. Lo dico così en passant, è mai una fiction in questo paese, un film serio che racconti la storia di questi imprenditori, come è cambiata l'Italia in 30 anni, sempre intimismo, oppure sempre quello che è successo negli anni 70, va benissimo, magari in America avrebbero già fatto interi serial TV sulla storia di questo boom economico che abbiamo conosciuto e che ci stiamo forse mangiando, ma che abbiamo conosciuto in questi 30 anni. Oh, sono uscite anche le notizie su Fondiaria Sai, Unipol detta le condizioni, adesso ne parliamo dopo le informazioni sul traffico. A chi dice più che la vostra iniziativa Disperati Mai @radio24.it a favore degli imprenditori in estrema difficoltà, dovreste chiedere i soldi alle banche, sono le banche che devono girare i soldi. Attenzione, non è che possiamo fare tutti, siamo d'accordo che il governo deve muoversi, vedremo cosa capiterà in settimana, c'è forse un accordo con il ministro Passera per sbloccare 7 miliardi di o 5 miliardi di crediti che lo Stato, che le imprese vantano nei confronti dello Stato. Però intanto partiamo così, intanto facciamo quello che possiamo fare noi qui, e poi si fa pressione anche sul governo. Il ministro Passera ha detto ieri, ma formule risolutive per combattere la crisi, tante piccole iniziative, ma si possono avere anche visioni è il cosiddetto fine tuning e anche aggiustamenti di breve. Non trovo una contrapposizione nelle due cose. Traffico. Adesso la borsa, più 0,36% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,60 Francoforte, più 0,26 Londra, più 0,38 l'America, rialzi da prefisso telefonico e in realtà oggi nuovo aumento degli spread spagnoli ai record storico nei confronti della Germania, quello che è il costo dell'indebitamento per la Spagna, nemmeno novembre fu così alto, e anche sui CDS, i credit default swaps, quindi il premio che si paga sulle polizze per assicurarsi contro il rischio Spagna, in rialza anche i nostri spread, poi sono scesi leggermente da 3,96 a 3,79 a borsa. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo da Fondiere Sai, poi andiamo perché è la notizia più recente. Allora, Unipol, detta le condizioni, vuole il 66,7%, se ho ben capito, per di concambio, cioè del nuovo Maxi Polo, che sarebbe Fondiere Sai insieme a Unipol. Ciao. Sì, fondamentalmente dice due cose. Dice che le azioni prima, finché saranno emesse nel contesto dell'aumento di capitale che consentirà a Unipol, insomma, di salvare la holding, non dovranno avere un prezzo superiore a 0,195 euro e possiamo vedere come un prezzo abbondantemente inferiore rispetto a quello di borsa, ma nel caso di un aumento di capitale per un salvataggio è abbastanza consueto. E poi la seconda condizione era quella che dicevi tu, insomma, post riassetto Unipol dovrà avere una partecipazione pari al 66,7% di quello che sarà il Maxi Polo che nascerà dalla fusione tra Fondiaria Sai e la stessa Unipol. Ancora tra i titoli segnalo complessivamente il dato negativo sul Banco Popolare, meno 5,50%, un'altra mazzata oggi. Ebbene invece Buzzi Unicem e Pirelli, più 4,66%, Pirelli più 3%. I tre titoli. Sì, diciamo da Buzzi ha guadagnato, come dicevi tu, è stato il miglior titolo del blue chip di Piazza Affari, ha recuperato dopo un calo che nell'ultimo mese aveva fatto segnare meno 21%. Perché questo rialzo? Perché oggi fondamentalmente gli operatori hanno depennato un po' di titoli bancari, preoccupati da quelle che possono essere l'esposizione degli istituti europei sul debito del vecchio continente, si sono concentrati sui titoli industriali e in particolare su quelli che consentono particolari rialzi. Per esempio Buzzi, secondo le stime del mercato, quest'anno vedrà utili in salita del 16% e quindi dopo i conti che sono stati comunque positivi del 2011 gli operatori hanno ritenuto opportuno acquistare questo titolo. Ancora Pirelli più 3, dicevamo, Tods più 2,60, Saipem più 2,20%, Telecom Italia più 2%. Telecom torna l'ipotesi di uno scorporo della rete? Sì, a rilanciarla oggi è l'inserto del Corriere della Sera. Ricordiamo che il Sole 24 Ore alcuni giorni fa aveva anticipato questa operazione, riportando addirittura il documento in cui Telecom Italia ipotizzava di scorporare appunto la rete, cosa che permetterebbe di diminuire il debito della società, che è ingente, che ad esempio ha impedito al management di distribuire un dividendo consistente quest'anno, e quindi gli operatori di borsa hanno immediatamente premiato questa prospettiva con un rialzo del 2%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, De'Longhi è la migliore, adesso non controllo da mezz'ora De'Longhi, eccola qua, sì, la seconda migliore titolo, Bonifiche Ferraresi più 51,4%, e De'Longhi più 11,70. Beh, anche Bonifiche Ferraresi, ma che è successo? No, su Bonifiche praticamente venerdì a mercati chiusi il socio di controllo, che è la Banca d'Italia, ha annunciato che verrà messa all'asta la partecipazione. Quindi questo significa che poi chi eventualmente comprerà la partecipazione della Banca d'Italia dovrà fare un'OPA, e quindi insomma è molto chiaro che il titolo abbia strappato subito a rialzo, si scommette su un'offerta premio chiaramente. Per quanto riguarda De'Longhi invece è di oggi l'accordo con il gigante Procter & Gamble per la cessione del famoso marchio Brown, insomma sì, per cui acquisisce il marchio Brown da Procter & Gamble, De'Longhi che già ha fatto una bella botta. Ma diciamo De'Longhi cede il marchio. Sì, cede il marchio Brown alla Procter & Gamble, De'Longhi che già ha fatto la fortuna anche con l'accordo con l'Espresso, ma questa è un'altra storia. devo dare una risposta anche al ministro Barca, perché gli studenti hanno detto che loro vogliono restare in Italia, e una risposta al governo: se continuate a tassare però le borse di studio per i ricercatori, non vi lamentate che poi gli studenti, che si va a fare ricerca all'estero. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo adesso la borsa e poi chiudiamo la borsa, nel senso il commento di borsa, la borsa già chiuso da 35 minuti, più di 35 minuti, e poi passiamo a un altro tema gravoso. Ciao Condina, dicevamo, tra i titoli, oltre a quelli citati e oltre alla novità su Fondieri Assai, male oggi Mediaset, che perde alla fine il 2,90%, e anche A2A meno 4,60%. Se mi dai anche Diasorin mi fai felice. Oh, andiamo velocissimi. Partiamo da Diasorin, è una società che era andata molto bene nell'ultimo mese, praticamente da metà marzo, mentre la borsa cedeva terreno e arrivava ad annullare i guadagni dell'ultimo, insomma da inizio 2012 Diasorin aveva guadagnato il 15%, oggi ovvio che a un certo punto qualcuno abbia voluto realizzare i guadagni fatti, appunto. Per quanto riguarda Mediaset invece c'è il consueto allarme pubblicità, diciamo consueto perché comunque da diversi mesi che ahimè i gruppi editoriali devono fare i conti col calo della pubblicità. Mediaset per il primo trimestre aveva previsto meno 8%, tuttavia nel weekend la RAI ha annunciato che a marzo la sua raccolta dovrebbe calare di circa il 22%, ovvio dunque che il mercato tema che quelle stime di Mediaset forse fossero troppo ottimistiche. Per chiudere A2A, che va ancora a sfondare i minimi storici, va a perdere il 4,58%, qui il timore che l'aumento del prezzo d'OPA su Edison, un aumento che si dovranno accollare i francesi, potrà vedere partecipe anche A2A, infatti i francesi potrebbero chiedere ad A2A di finanziare almeno una parte dei 60 milioni in più che dovranno insomma rendere al mercato per adeguarsi a quella che è stata la decisione della Consob. Di qui il crollo, il nuovo crollo di A2A in borsa. Grazie a Ciao Conin, Radio Corriere sulle 24 ore, migliori e peggiori, dicevamo, oltre a bonifiche Ferrarese e De Longhi, RDB Spa il peggiore meno 11,7%, Mondo TV meno 11,12%, Pramac meno 7,80%. Prima di passare al tema, ti ripeto, uno di quei temi che non avrei mai voluto affrontare nella vita, cioè il bollettino da guerra dei suicidi degli imprenditori, devo dire che oggi il ministro Barca, lo abbiamo detto in apertura, ha detto: beh, insomma, ho due figli all'estero, due figli su tre sono all'estero, se l'Italia non cambia fanno bene, se l'Italia non migliora è giusta la fuga dei cervelli. Gli studenti, la rete degli studenti ha scritto poco fa al ministro dicendo: guardi, noi vorremmo restare, vogliamo restare, certo che se ci fossero anche delle politiche per restare in Italia, penso semplicemente a quello che è successo con i ricercatori, quindi la tassa sulle borse di studio. Ma si può mettere una tassa sulla borsa di studio che serve al ricercatore per campare? Io non lo so, ma facciamo la lotta all'evasione, facciamola dura e seria anche sui grandi capitali, ma la tassa sulle borse di studio, a questo punto siamo arrivati? Però l'importante è che nessuno si lamenti, che il ministro possa dire: tanto due figli ce li ho all'estero e fanno bene gli italiani a emigrare e espatriare. E chi non può farlo, come la mettiamo, ministro Barca? L'importante però è non disturbare. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E vedo invece che forse abbiamo appena fatto tempo a fare l'appello, forse salta, vedremo come andrà in Parlamento, salta questa tassa sulle borse di studio, obiettivamente per i ricercatori, obiettivamente una cosa che non si poteva sentire. Allora, l'iniziativa di Radio 24 l'abbiamo ricordata, disperatimai@radio24.it, tutti gli imprenditori che si sentono soli, da lì nasce anche la disperazione, oltre che dal conto economico, soli perché dietro la banca non c'è, fa orecchie da banchiere, possiamo dire a questo punto. Non ci sono le istituzioni, perché non c'è una regione che abbia istituito un numero verde per, con dietro qualche psicologo, almeno per dare un'assistenza psicologica. Lo Stato, il governo, obiettivamente un po' più di moral suasion, di coraggio sulle banche, potrebbe anche mettercelo, o qualunque altra iniziativa, e allora noi abbiamo deciso che c'è una piccola iniziativa, per carità, un indirizzo mail, disperatimai@radio24.it, a cui scrivete, risponderemo, ne terremo conto, ne parleremo io, Oscar Giannino, nei rispettivi programmi, e poi speriamo di arrivare anche a una grande mobilitazione finale dell'orgoglio di chi lavora, l'orgoglio di impresa, mettiamola così, vediamo. Intanto scrivete e noi ci occupiamo di un'iniziativa assolutamente meritoria, ma che non avremmo mai voluto raccontare. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. Speranza al lavoro è l'associazione dei familiari degli imprenditori che si sono suicidati. Iniziativa di Adiconsum e Filca CISL, simbolico luogo scelto, la sala dove 2 settimane fa Laura Tamiozzo, figlia dell'imprenditore suicida vicentino Antonio Tamiozzo, aveva letto la lettera da imprenditrice a imprenditrice scritta di suo pugno, indirizzata a Flavia Schiavon, figlia di Giovanni Schiavon, che si è suicidato a dicembre. C'è un passaggio della presentazione in cui Flavia Schiavone ha chiesto, anche sulla base della sua esperienza personale, la fine di questa strage silenziosa. Sentiamo questo passaggio e poi le altre interviste invece che ha realizzato la nostra Raffaella Calandra. Sono tutti matti, ci stanno portando, cioè è una strage, ci stanno portando, e non è neanche facile salvare o mandare un messaggio per dire basta, chiedete aiuto, cioè quello è, bisogna chiedere aiuto, è che purtroppo non è semplice quando ti trovi mille cose per la testa, penso che il cervello si blocchi e lì non sei più te e non pensi alle persone che ferisci, che in quel momento secondo me ti senti solo. Provare a chiamare questo numero verde, a provare a scrivere, di chiedere aiuto, di pensare che noi valiamo e che dietro c'è sempre qualcuno che ci ama e che soffrirebbe per il resto della vita. Cos'è che manca ad un imprenditore in crisi che arriva a pensare e purtroppo molto spesso, sempre più spesso, anche a noi fare un gesto parlando, così? Parlando, e quindi non potremo mai capire, perché parte dal cervello e non sai mai, cioè noi ne parliamo, quindi no, non possiamo capire. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari. Chissà se tra le iniziative citate dal ministro Passera ieri nell'intervista con l'Annunziata in mezz'ora, che ha detto non servono grandi ideone, ma piccoli aggiustamenti, va bene, io penso che servono anche visioni, però ministro, va bene, ci date anche qualche piccola iniziativa di fine tuning su questo tema? Perché insomma lei il mondo bancario lo conosce molto bene, è stato numero uno di Banca Intesa per molti anni, ha ammesso anche lei da quando è ministro che il credit crunch c'è. Allora speriamo che questa settimana, come abbiamo letto, come ci ha promesso, arrivi un'iniziativa per sbloccare alcuni soldi per gli imprenditori che chiudono e falliscono pur avendo crediti nei confronti dello Stato. 2 settimane fa abbiamo avuto un'imprenditrice che ha 4 operai su 4 in cassa integrazione e nel 2011 ha dovuto fare un mutuo per pagare le tasse. Fare un mutuo per pagare le tasse. Sono un eroe. Il passaggio dell'appello di Flavia Schiavon. Avrei voluto aiutare chi come me si è trovato in una situazione inaspettata di infinito dolore. Chi come me si è chiesto il perché di un gesto estremo? Chi come me sta cercando ancora di rispondersi a troppe domande? Non giustifico il gesto di mio padre, non lo eroizzo, perché ci ha fatto tanto male decidendo solo per lui. Ad oggi devo sistemare la mia vita, i miei problemi e andare avanti, seppur con il dolore, con dignità e umiltà e con la forza che troverò nelle persone che ho accanto. Le persone che hanno creato questa associazione di volontariato, voglio sottolineare che l'hanno costituita non di certo per apparire come dei supereroi, ma solo per tendere una mano a chi è in difficoltà e che magari stanno pensando ad un gesto estremo. Basta con questa strage. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Oh, ci sono stati anche due suicidi, un tentato suicidio e un suicidio invece di disoccupati, di cui parliamo anche tutti i giorni. Però faccio solo notare che due giorni fa i suicidi degli imprenditori italiani sono apparsi sulla prima pagina dell'International Herald Tribune. Allora magari il governo Monti se ne accorge, perché è molto sensibile ai temi esteri. Una nota e poi andiamo sul traffico e sentiamo invece chi era presente oggi alla manifestazione dopo il traffico. Attenzione, criticare alcune iniziative del ministro Fornero, del ministro Passa, del presidente del Consiglio Monti non vuol dire rinnegare, lo dico a tutti quelli che vedono bianco o nero, le cose meritorie che ha fatto Monti, che il governo Berlusconi non è riuscito a fare con la più grande maggioranza che ha avuto questo paese in Parlamento, non ha fatto una riforma che non fosse quella della Gelmini. È un governo che penso nessuno a partire dai mercati rimpianga, un governo che non è capace di fare la riforma delle pensioni, che prendeva il nome della riforma Maroni, ma poi la Lega non la voleva, quindi nessuno rimpiange il governo Berlusconi. Ma si può criticare il governo Monti senza rimpiangere il governo Berlusconi? Secondo noi sì. Traffico. Allora, Laura Moro, buonasera. Buonasera. Lei è la segretaria dell'associazione Speranza Lavoro, l'associazione che non avremmo mai voluto vedere, che però è nata oggi. L'associazione dei familiari degli imprenditori che si sono suicidati, è nata oggi al centro parrocchiale di San Sebastiano di Vigonza, in provincia di Padova. Ricordo, perché è una pubblicità che mi sembra utile, che abbiamo lanciato proprio oggi il sito disperatimai@radio24.it, scriveteci le vostre storie, quello che possiamo fare è ascoltare e dare voce, di più non riusciamo. Qual è l'obiettivo che si propone l'associazione Speranza al Lavoro? Innanzitutto devo fare una precisazione. Prego. Nel senso che non è un'associazione dedicata esclusivamente agli imprenditori, ma è riguarda tutte le vittime dell'indifferenza al lavoro, che non sono solo gli imprenditori, sono i liberi professionisti, sono i lavoratori soprattutto. Oggi si è ucciso un agricoltore, per esempio a Fano. Roberto Piccinetti, 62 anni, si è impiccato in un capannone della sua azienda agricola. Quindi io dico imprenditori, ma le fa bene ricordare tutti, artigiani, agricoltori, tutti. Dipendenti e quant'altro. Prego. Nel momento in cui un'azienda chiude, non sono solo gli imprenditori e le famiglie degli imprenditori a subire la crisi, ma sono tutte le famiglie dei dipendenti e tutto il contesto territoriale attorno all'azienda, perché non ci scordiamo tutti i fornitori, tutti coloro che hanno debiti nei confronti dell'azienda, tutti coloro che hanno degli avanzi nei confronti dell'azienda. Quindi entra in crisi tutto il contesto territoriale. Assolutamente, tra l'altro proprio nel Veneto, ma anche vale per il Piemonte, per l'Emilia, per la Toscana, per le Marche, c'è una filiera, non è mai un'impresa da sola, non è l'uomo del monte che pianta lì la sua impresa, ci sono i subfornitori come ricordava lei, ci sono i clienti, ci sono i dipendenti, insomma è un disastro. Senta, sarà il vostro obiettivo qual è? Dare una forma di assistenza, cioè non far sentire soli, il suicidio nasce anche da una profonda solitudine, ma anche fare un po' di pressione, non so. Allora, noi vogliamo muoverci su diversi piani. Per quanto riguarda le vittime dell'indifferenza, ci muoviamo sia dal punto di vista legale, offrendo assistenza legale, sia dal punto di vista psicologico, offrendo appunto dell'assistenza psicologica, sia vogliamo creare delle convenzioni con delle banche in modo da poter dare dei finanziamenti, saranno magari dei microfinanziamenti, anche perché per lo più in questa zona si parla di debiti non altissimi. Ma no, infatti. Senza voler dire che le banche devono finanziare imprenditori che non ce la fanno, nel senso che la banca non può buttare via i soldi dei risparmiatori, però non è che tutti gli imprenditori non ce la debbano fare, tutte le banche chiudono i rubinetti e basta, e non ci possa essere un modo per No, ma anche perché molto spesso parliamo di aziende potenzialmente sane e che sono entrate in crisi perché non sono stati pagati dei debiti. Da chi? Dallo Stato e dai privati? Per lo più sono del pubblico, comuni, capito, province, Stato, anche i privati per la maggior parte però sono enti pubblici. Anche perché noi, essendo che l'associazione nasce dalla Diconsum e dalla Silca CISL, per lo più siamo esperti, tra virgolette, per quanto riguarda tutto il settore edile del legno, del cemento, per cui lì i committenti sono per lo più pubblici. E non pagano, pagano a 700, pagano, 600. Sì, esattamente. Per cui un'azienda anche sana si trova a dover chiudere perché non riesce più a rispondere ai debiti, non riesce più a pagare le tasse, come dicevate voi prima, e non riesce più a pagare i fornitori, non riesce più a pagare i dipendenti, sì, anche se potenzialmente sarebbe sana. Ecco, a me quello che ha sorpreso, al di là poi dei motivi, nessuno vuole mettere tutto in un calderone, ma è il silenzio, cioè nessuno ne vuole parlare, no? Perché... Perché secondo lei nessuno ne parla? Perché non fa ascolti, non fa audience? No, guardi, la nostra associazione, oltre all'assistenza alle vittime e ai parenti delle vittime, ha un secondo punto di riferimento, che è quello del ricreare delle connessioni sociali, una rete sociale che possa affiancare gli imprenditori e il lavoro in generale. In questi ultimi anni la finanza ha preso il sopravvento sul lavoro, anche dal punto di vista culturale. Si parla di finanza e allora è una cosa di cui dimostrarsi orgogliosi, quando si parla di lavoro invece è una cosa da poveri uomini che devono lavorare, non possono giocare. Sì, fa molto figo lavorare nella banca d'affari, fa meno figo lavorare nell'industria metalmeccanica di cui parlavamo prima, che però tiene in piedi il paese, mentre la banca d'affari spesso, soprattutto quelle con cognomi e nomi inglesi, lo hanno distrutto la ricchezza in questi anni. Prego. Per cui è anche una questione culturale, nel senso che del lavoro non ci si interessa più da anni, non è una questione che è iniziata oggi, è una questione che è iniziata molti molti anni fa, per cui anni e anni di non cultura del lavoro, di non voce al lavoro, ha creato tutto un contesto appunto culturale che vede, non dà ascolto a questo ambito, perché sono come i rematori al fondo della nave. Fanno il lavoro sporco, fanno il lavoro necessario, però poi la vita è al di sopra della nave e dei rematori nessuno se ne cura, anche se i rematori possono entrare in crisi, è forte crisi come è adesso, è meglio non vederli. Oppure la lobby dei rematori è una lobby non così potente, perché poi abbiamo visto che questo paese, quando tocchi gli avvocati sulle tariffe minime, si blocca tutto, anche i tassisti, non me ne frega nulla, torto o ragione, la sapete come la penso sui tassisti. Non era un grosso tema, però insomma anche la chiusura corporativa è stata totale, farmacisti uguale, così. Evidentemente la lobby degli imprenditori, dei piccolissimi artigiani, non ha tutta questa forza, lo dico anche alle loro associazioni di categoria, anche a Confindustria, che è anche l'editore di questa radio. Visto che abbiamo fatto un appello che ha avuto successo, almeno su due partiti, Lega e UDC, l'appello lo rilancio e poi vi spiego anche perché lo mando in onda adesso, perché vorrei girarne uno dedicato per esempio al governatore Zaia, a Cota, a Formigoni e tutti quelli che rappresentano il nord di questo paese. Prima il nostro appello. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori. Oh, non so se ci hanno sentito, comunque la Lega ha rinunciato a questa tranche, ma a noi risultava fossero quasi 18 milioni di euro. L'Italia dei Valori ha rinunciato anch'essa oggi, mancano i tre grandi. Allora, il PDL dovrebbe avere 70 milioni di euro, il PD quasi 58, l'UDC altri 5-6 se non ricordo male. Ecco, rinunciate anche voi. Detto questo, governatore Zaia, Cota, Formigoni, parliamo solo del nord. Lo istituiamo questo numero verde per gli imprenditori che si sentono soli, per i disoccupati che si sentono soli, per i terzisti che non vengono pagati, per gli agricoltori prima che si impicco? Lo istituiamo, perché voi avete le ASL, avete le ASL che pagano in ritardo, almeno dessero gli psicologi, no? Almeno qualcosa intanto. Mi dice le vostre prossime iniziative? Dunque, innanzitutto dovremo dar vita e costituire la rete, a cui teniamo moltissimo, un po' perché per due motivi fondamentali. Il primo è che riteniamo che il problema non possa essere curato da un punto di vista esclusivo, ma sia un problema estremamente complesso, e come tutti i problemi complessi deve essere preso da più lati. Per cui vorremmo far rete con tutte quelle strutture che possono essere di supporto, a partire dalle strutture pubbliche tipo le USL, che ci possono aiutare, anche dal punto di vista delle prefetture vorremmo creare la rete, e poi tutta la rete associativa, a partire dai telefoni azzurri, a partire dalle associazioni che sono già nate di assistenza agli imprenditori in crisi, che ce ne sono già diverse in Veneto, credo siano 4 adesso. Sì, noi ne conosciamo due che con Fateginato Asolo Montebelluna 800 130 131, e poi l'associazione Imprese che Resistono, www.terraferma-icr.it, rete di psicologi. Devo correggermi, perché l'invito che abbiamo appena rivolto a Bersani, Casini, Alfano va all'aria. Poco fa ABC, come si chiamano ormai i tre, hanno detto, Alfano, Bersani e Casini, cancellare del tutto i finanziamenti pubblici ai partiti già drasticamente tagliati dalle manovre 2010-2011 sarebbe un errore drammatico che punirebbe tutti allo stesso modo, metterebbe la politica nelle mani delle lobbies. Ok, ci dite qualcosa anche su questa tranche? Magari andate a chiedere a Lusi i soldi, vabbè. Io devo ricordare di nuovo l'indirizzo di Radio 24 per l'iniziativa che abbiamo appena lanciato, e fare in bocca al lupo a voi. Però spero che la vostra associazione chiuda prestissimo, perché vorrebbe dire che non c'è più problema, signor Laura Moro, e però sono in chiusura anch'io. Bocca al lupo veramente a voi e a tutti, l'associazione dei familiari degli imprenditori suicidi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, non più soli, @radio24.it. Radio 24, la passione si sente.